Beh, facciamo così. Però io lo sento sempre alla radio, che me lo mette sempre il disco Umberto. Me lo metti? Fighissimo. È una figata, se lo monti figo. Magari lo fai salire tipo Past the Toilet Paper, ti ricordi? Sì, infatti, adesso poi facciamo così, adesso mi fai tu gli fai DJ. Ma adesso faccio la parte iniziale. No, no, aspetta, segui. La canzone gli fai al DJ. Allora aspetta, ti spiego bene com'è la canzone. La canzone di Umberto, c'è un motivo che fa, e tu adesso fai la melodia a voce, che io poi la campiono sulla canzone. Sì. E che basso li facciamo? Tun tun tun tun. Fa tun tun tun. Ma deve essere dritta. Bum bum bum bum bum. No, ma sei tu che fai la voce, io poi la tua voce diventa il ritmo della canzone su questa cassa. Ma deve essere ossessiva. Umberto. Umberto. Capito? Allora, vado. Oh DJ! La canzone di Umberto fa na na na na na na na na con sotto Umberto. Fai la melodia sulla cassa. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na un po' di gente si sente. Tu la scena è questa, il disco inizia così. No, il disco inizia così. Che tu entri in un locale e fai: scusi, dov'è il DJ? È laggiù in fondo. Grazie. Scusa? Vedi il microfono di là. Bella la festa. Scusi? Dov'è il DJ? Là? No, non fai la voce troia, fai la voce di prima. Scusi, dov'è il DJ? Bella la festa. Scusi, dov'è il DJ? Là? Ci devo chiedere una cosa. Umberto. Umberto. Umberto. Umberto. E qua c'è la pausa. La pasta. La pasta. E se lo monti figo viene fuori una figata. Ma no, ce l'abbiamo i bianchi. Sì. Umberto. Disco Umberto. Disco Umberto. Umberto. Umberto. Mica fighissimo. Secondo me facciamo disco Umberto e vedrai che spacchiamo il culo e vinciamo San Jimmy. Perché cosa voglio fare? Dun. Giro che hai detto tu, che ti ho fatto cantare. A metà lo fai. L'abbiamo fatto adesso. Lo metto sotto, lo trasformo, lo faccio diventare elettronico e diventa il giro. Figo. Ciao. Mi sa che mi è salita la pasta. Mi sa che meglio che vado a casa. Io voglio fare il dopo festival, dove sono le interviste. Figo. C'è Studio Aperto che fa le interviste a noi che siamo a San Jimmy. No, vabbè, il testo l'ho scritto mentre mangiavo un piatto di pasta. Mi sono fatto un piatto di maccheroni e ero fuori come un castoro.